Na radio ru ma Nartra radio Roma radio radio radio Nartra radio ru ma Ciao, benvenuti a tutti sulle frequenze di Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. We'll be right back. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. Thank you. Mi piace questo progetto de Nartra Radio de Roma, si dice così. Ciao, io sono Coccio, non Cocco. Questo è il mio progetto 16 bits, in cui provo a utilizzare le cose più stupide che ho trovato per suonare e riprodurre le sensazioni che mi girano in testa al momento. Niente di sé, insomma. Thank you. Progetto segreto in casa 2003, con la passione per la drum and bass e lo dubstep. Questo è il mio primo pezzo e si chiama Abstract, e si chiama Abstract, e si chiama Abstract. Yeah. Boyfriend, let me manage ad intermittenza e luci del centro storico, affreschi brevi di ciò che mi circonda, la mia città, che città non è? Grazie per il vostro attento ascolto. Thank you. Benvenuti a tutti sulle frequenze di Nartra Radio Roma. Mi chiamo Andrea e sono qui per presentarvi alcune delle mie composizioni. Cominciamo con Neutron. È uno di quei tanti pezzi che nascono dalla mia passione per i sintetizzatori. Nelle pagine web dedicate alla mia musica ho riunito a parte tutti quei brani realizzati utilizzando esclusivamente un unico generatore di suono. La musica qui in effetti è solo un pretesto per esplorare le capacità di sintesi sonora dello strumento. E questo tipo di approccio è abbastanza consueto e ricorrente nelle mie composizioni, ed è indice del fatto che a volte il genere musicale adottato è quasi sempre marginale rispetto al mio principale obiettivo, il suono. Trio è stato pensato per essere eseguito con veri strumentisti. Ciò che sentirete è solamente una dimostrazione realizzata al computer. L'idea di fondo è quella di esplorare la terra di mezzo che divide il mondo atonale, qui idealmente rappresentato dal cluster, da quello più consueto della modalità. Il brano nella sua macrostruttura si sviluppa in tre fasi. Una prima, tema più variazioni, le cui variazioni consistono in primo luogo nel giocare sulla trasformazione progressiva di cluster in triadi e nel passaggio progressivo da situazioni meditative accordali ad un generale infittimento ritmico. Una seconda fase, la cui funzione distensiva serve a spezzare quella meccanicità innescata sin dalle prime battute. Un'ultima fase, infine, in cui metto in atto dei meccanismi strutturali più elaborati, e ciò rientra fra gli intenti generali di questa composizione, ovvero passare dal semplice al complesso. Si tratta cioè, macroscopicamente parlando, di sovrapporre due strati costruttivi paralleli ben distinguibili. La loro funzione principale è quella di appiattire le gerarchie fra i tre strumenti, che posti orchestralmente sullo stesso piano, favoriscono dunque una dialettica fra oggetti timbrici, in netto contrasto con le due prime fasi della composizione. Thank you. Alonen e Elec Boss fanno parte di una raccolta di brani, completi e non, estremamente variegata in quanto a generi musicali affrontati. Sono stati realizzati fra il 1991 e il 1996, impiegando esclusivamente una famosa workstation musicale italiana. Tastiera amata e odiata allo stesso tempo perché da una parte mi consentiva per la prima volta di esprimere le mie idee musicali in maniera più o meno accettabile. Dall'altra la stessa non era in grado di soddisfare appieno il mio desiderio di controllo sul suono, date le scarse capacità di sintesi e la ridicola memoria di 2 MB dedicate ai suoni con board. Tuttavia, mi ha consentito di cimentarmi in tutti quei generi musicali che all'epoca mi incuriosivano e sui quali volevo provare a dire la mia. Elec Boss, in particolare, è il tentativo di ricreare su una tastiera digitale priva di filtri risonanti una sorta di atmosfera vintage, con suoni scarni da pionieri della musica elettronica. Thank you. Welcome to my recycled music farm. Questo era il messaggio che scrissi nella mia pagina utente su Sound Lantern. I 7 brani che compongono la raccolta della Recycling Music sono speciali mix realizzati usando esclusivamente musiche o effetti sonori caricati online dagli utenti del social network in questione. Ho gestito tutto il materiale senza alcun tipo di sincronizzazione ritmica automatica. Nella stragrande maggioranza dei casi l'unica elaborazione digitale riguarda prevalentemente la modifica degli inviluppi d'ampiezza e di panoramica delle tracce. E queste partono tutte allo stesso momento, alcune semplicemente zittite dal proprio inviluppo ed eseguite in loop costante. Ho scelto poi una traccia di riferimento che mi ispirasse per la realizzazione della macrostruttura generale. Si tratta in sintesi di improvvisazioni elettroniche sul materiale preesistente, ispezioni di musiche tendenzialmente license free o comunque inedite ed effetti dei più eterogenei per creare un brano ex novo e senza avvalersi, come già accennato, di sincronizzazioni ritmiche, ma esplorando il contrasto di timbriche e spazializzazioni il più possibile molto differenti fra loro. Tant'è che in ogni brano le due o tre tracce, ascoltabili in simultanea sin dai primi secondi, non vanno quasi mai a tempo, salvo casi fortuiti in cui lascio che ciò accada. Nonostante l'approccio apparentemente casuale, si può ad ogni modo facilmente riscontrare un filo conduttore ed una macrostruttura ricorrente. Sì. One second, you fuck you, you bastard. I'm gonna give you 30 more seconds, I'm gonna some more porn. What? I'm not even joking, I'm gonna download some more porn if you don't get it. Oh, for fuck's sake. The fucking me out. Fuck you. The fuck is mine? Hello? That's it. Oh, you're faggoting. I'm actually gonna shit in your mouth if you don't pick up. I won't shit in your mouth. Hello. Joke. Hello. Fuck. Hey, take your fucking time, you bell. Wait, I'm about to pick then. You are. I picked up. All right then. I'll let you have that one. All right. I miss you, bro. Masculine voice. Hello. It has got deeper though. It hasn't. It has. The D bit me in the neck. You're trying a big to fucking dog bit me in the leg. I hit him with the motherfucking tire iron and I stabbed him with my knife. So I got hurt. I'm a dumb chicken and your brain starts clicking. You have? Indian man. Hey, Charlie. Mesa. Chickeny China. You know, that's pretty racist, man. Yeah. Chickeny China, the Chinese chicken. Oh, God. Fucking. Sorry. Do you have an emergency? I need a bam. 01480. No, that's not it. Oh, well, I know that. I'm just ringing them. 0800. Oh, you've done it. What the fuck? Fuck you. Oh, I got a hello? Me when I was like 5 years old. That's it. I'm in. Bingo. Shit. I don't fuck those in. I wanna see my picture. What picture? That picture, I'm not see. Apparently I've got a picture. It's raining. Does it show up? Hello? Hello? On September. Not much. And the rain and light be. Why do you like to hold Megatron? will be made and commerce will happen. We down the rain and light the fire. Seems the honey fairly rich. Honeysuckle all. Like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. I rhyme hot like coffee, dipping tracks like stones. Lacing tracks like Teflon, rhymes busting through your bones. Airwaves, I roam like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. E che mo, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio. Un'altra radio, radio, radio, radio. Roma! Roma! Roma! È una radio Roma. Che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.